turbamento in cor mi sento. Sento d'amor ardere il cuore. Oh, Margherita, al tuo piede io vo. Ciao, my soul.